mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Buon pomeriggio a tutti da Gigi Telesforo, ben ritrovati al Soundcheck, la prova del suono di Radio 24, puntata quella di oggi che vorrei dedicare a cinque soul sisters contemporanee che con la loro arte già dai primi anni 90 hanno regalato un suono nuovo al panorama discografico della black music. Il via con una delle voci più affascinanti, quella di Erykah Badu, soul sister nata nel 1971 a Dallas, che oggi è considerata la regina del neo soul, esponente quindi di quel movimento artistico che si è formato nei primi anni 90, opera di musicisti che venivano dal rhythm blues, dal soul, dall'hip hop, con qualche sfumatura jazz. E su questo tipo di impianto sonoro Erykah Badu scrive i suoi testi, che affrontano sempre tematiche socialmente impegnate, testi spirituali legati alle relazioni umane. Con diversi album realizzati anche come producer, Erykah Badu ha sempre ottenuto il plauso della critica internazionale e anche numerosi importanti riconoscimenti, fra i quali anche ben 4 Grammy Award. Nata, come dicevo, nel 1971 a Dallas, viene svezzata insieme ai due fratellini dalla nonna, perché abbandonata dal papà e con la mamma sempre in tournée come ballerina cantante, la nostra Erykah Badu si ritrova a 4 anni per la prima volta a calcare il palcoscenico del Dallas Theater Center, dove si esibisce come giovanissima improbabile ballerina cantante. Ma a 14 anni arriva la folgorazione, perché in una piccola radio locale incontra il trombettista Roy Hargrove e con lui improvvisa in freestyle un rap, e quindi in qualche modo diamo il via alla sua carriera, che ripropone in tutte le sue produzioni discografiche questa effervescente fusione fra hip hop, R&B e jazz. Erykah Badu ha realizzato non più di 2 anni fa l'ultima pubblicazione discografica intitolata New America Parte Seconda, Return of the Hank, realizzando un video scandalo per la promozione dell'album. Infatti il primo singolo ufficiale di questo disco, intitolato Window Seat, è stato paragonato ai suoi primi lavori grazie al suo inconfondibile sound soul, ma il videoclip del brano, girato senza budget né un set blindato, ha fatto veramente scalpore. 2 minuti emozionanti, durante i quali la Badu, girando il video poi nella Delay Plaza di Dallas, la piazza dove poi è stato assassinato nel 1963 il 22 novembre il presidente John Fitzgerald Kennedy, sfila davanti all'occhio delle telecamere e improvvisa uno striptease che termina con una caduta come se venisse colpita da un colpo di pistola. Naturalmente questa cosa ha fatto scandalo ed è stata anche multata di $500 e condannata a 6 mesi in libertà condizionata. Allora ascoltiamo il talento di Erykah Badu proprio in Window Seat, qui al Soundcheck di Radio 24. L'arte, il suono inconfondibile di Erykah Badu in Window Seat, per ricordare proprio l'omicidio del presidente John Fitzgerald Kennedy del 22 novembre del 1963, e l'intento proprio del progetto, secondo le dichiarazioni della stessa cantante, era proprio quello di trasmettere un messaggio forte su come è facile uccidere e più in generale odiare ciò che non si conosce. Erykah Badu chiude la prima parte del Soundcheck di Radio 24. La voce voce inconfondibile di Jill Scott, protagonista in questa puntata del Soundcheck di Radio 24, dedicata alle grandi interpreti del Neo Soul e le protagoniste della Black Music di oggi. Jill Scott qui con Hear My Call, tratto dall'ultima pubblicazione di un paio di anni fa intitolata The Light of the Sun. Jill Scott è una vera artista, una bravissima autrice di testi, una poetessa specializzata proprio nello spoken word, ovvero l'abilità che hanno certi artisti anche di strada di salire su un piccolo podio e di esclamare e di decantare e di dar vita a tutta la forza che possono avere le parole, magari in chiave ritmica, tipica, atteggiamento tipico dei rapper. Jill Scott ha una vocalità infinita, pensate che possiede ben 6 ottave di estensione, quasi mai le sfoggia durante le produzioni discografiche, però certamente dal vivo si lascia andare un po' di più e riesce a sorprendere anche i cantanti più esperti. Una donna che vive di musica da sempre, ha dimostrato sempre un grande carattere nelle sue produzioni discografiche e anche il carattere tipico delle Soul Sisters, che molto spesso si lasciano andare a atteggiamenti un po' fuori dal comune, così come ha fatto Erykah Badu, che ha realizzato il suo videoclip nella piazza dove è stato assassinato John Fitzgerald Kennedy, facendo scandalo. Anche Jill Scott non è da meno, perché durante un concerto alla Carnegie Hall, dove comunque c'è un bel protocollo da rispettare, durante il concerto lascia il microfono, va verso il batterista e gli dà un bel bacio con la lingua che è durato almeno 3-4 minuti, con la gente che ululava, per poi dichiarare al pubblico che quel signore, il batterista Lil John Roberts, sarebbe di lì a poco diventato suo marito. E questa era Jill Scott qui al Soundcheck di Radio 24, che lascia il testimone a un'altra protagonista della Black Music di oggi. Abbiamo già parlato di Leila Hathaway, figlia d'arte, figlia di Donny Hathaway, scomparso giovanissimo quando la figlia aveva soltanto 10 anni, quindi si sono frequentati pochissimo, ma Leila Hathaway, che ha studiato musica e è un'artista molto preparata da un punto di vista musicale, ha ereditato la vocalità del papà, così profonda e anche così estesa, piena di sentimento. E Leila Hathaway in carriera non si è mai cimentata con il repertorio del padre, forse per il rispetto, forse perché troppo emozionata per farlo, ma solo in un'occasione ha dato vita a una interpretazione meravigliosa di Someday We'll All Be Free, brano celebre scritto da Donny Hathaway, qui accompagnata e supportata dai Take Six, proprio da un album dei Take Six prodotto da Marcus Miller. E allora godiamoci la bellezza della voce, la bellezza di Leila Hathaway con i Take Six qui al Soundcheck di Radio 24. Dedicata alle regine della Black Music contemporanee, e fra le regine della Black Music di oggi qui al Soundcheck di Radio 24 arriva anche una delle mie preferite, la bravissima Angie Stone, una musicista completa. Angie Stone, anche lei dotata di una vocalità assolutamente riconoscibile, molto duttile, ma è anche una musicista completa, suona discretamente il sassofono e quindi per queste sue qualità, bella voce, sassofonista, musicista, e 20 anni fa era anche una bella ragazza, approda anche a tournée internazionali di spessore come quella di Lenny Kravitz o come quella di quello che poi diventerà il suo compagno, perlomeno per un breve periodo, il monarca del New Soul, e torna ancora una volta D'Angelo. Incontra D'Angelo, scrive testi per i dischi importanti di D'Angelo come Brown Sugar e Hoodoo, parte con lui in tournée e quindi si ritrova molto presto nel letto di questo monarca del New Soul con gli addominali squartati, dal quale ha anche 2 figli. Probabilmente la loro storia d'amore, come spesso succede, si interrompe, ma Angie Stone non interrompe la sua attività artistica, continua a fare musica con grandissimo successo, e dall'ultima pubblicazione intitolata Rich Girl ascoltiamo proprio una sua composizione dal titolo Do What You Gotta Do. Angie Stone al Soundcheck di Radio 24. If you hear me. Tell me, can you feel me? Yeah. Holler if you're with me. Yeah. If what I'm saying, say. Yeah. Holler if you hear me. Yeah. And tell me, can you feel me? Yeah. Holler if you're with me. If you hear what I'm saying, say. Yeah. E a chiudere questa puntata del Soundcheck qui su Radio 24, puntata dedicata alle regine della Black Music, arriva e ci pensa la talentuosa Esperanza Spalding, talento veramente unico per questa ragazza ancora giovanissima, è nata nel 1984 a Portland, svezzata in un quartiere malfamato come il King di Portland, dove frequenta ambienti diversi, con caratteri ispanici, gallesi, americani, africani. Questa ragazza, proprio in questo crogiolo di culture diverse, si avvicina alla musica, studia il violino dall'età di 5 anni per poi approdare al pianoforte e poi cimentarsi anche con l'oboe e il clarinetto, fino ad arrivare un bel giorno a scoprire le corde del contrabbasso. E supera brillantemente un provino, un'audizione alla Berklee School of Music di Boston, dove entra addirittura con il full credits, ovvero la possibilità per alcuni talentuosi musicisti di fare tutto il percorso di studi gratuitamente, con vitto e alloggio inclusi. Naturalmente Esperanza Spalding ricambia questa fiducia, portando alla Berklee School of Music di Boston 2 Grammy Awards vinti con le sue pubblicazioni negli ultimi anni, e oggi insegna alla Berklee School of Music di Boston, che frequenterà sicuramente pochissimo, un paio di lezioni all'anno, visto che è perennemente in tournée. Allora chiudiamo con Esperanza Spalding, la sua voce, il suo contrabbasso, il suo sound. Qui incontra un'altra cantante bravissima come Algebra Blessed in questa composizione dal titolo Black Gold, dall'ultimo bellissimo album di Esperanza Spalding intitolato Radio Music Society. A tutti voi buon pomeriggio, buona musica e restate in contatto con i programmi di Radio 24. A presto. Soundcheck. Il suono della musica.